Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti dalla BIT, dalla Fiera Internazionale del Turismo di Milano. Ebbene, oggi anche noi tratteremo un argomento che è molto vicino al turismo ed è la ristorazione d'albergo. La ristorazione d'albergo che è estremamente importante, può essere anche un traino per il turismo, come vedremo, ma può essere anche un problema molto importante e grave se la ristorazione d'albergo non è di livello, non è all'altezza, soprattutto con la prima colazione del mattino, che in Italia è assai scarsa e devo dire che in molti casi è veramente da respingere. Bene, noi cominceremo questo giro a discutere di questo argomento con il direttore della Michelin Italia, Fausto Arrighi, ma prima di passare la parola e di dare il buongiorno ad Arrighi, io ricordo chi volesse intervenire sull'argomento 800 24 00 24 SMS 349 238 6666. Ricordo anche che sul sito Gastronauta ci sono già diversi interventi sull'argomento e alcuni molto molto diciamo duri verso la ristorazione d'albergo che poi vedremo con calma. Buongiorno Arrighi. Buongiorno Davide. Voi come Michelin da sempre avete portato molta attenzione alla ristorazione d'albergo e quindi sicuramente siete forse i giudici più importanti da questo punto di vista. Secondo te com'è oggi il livello medio della ristorazione d'albergo italiana? Ma in generale è abbastanza positivo, specialmente su alcune strutture alberghiere, quelle diciamo di alta gamma, dove si cerca di fare anche una ristorazione gourmet con degli chef importanti. Questo può essere da traino anche agli alberghi meno qualificati, diciamo, a livello di classificazione alberghiera, ecco, anche nei 3 stelle si sta cercando di aumentare un po' il livello della ristorazione. Abbiamo con noi anche Carmen Moretti, che è amministratore delegato per la divisione alberghi di Terra Moretti, l'Alberetta e l'Andana in particolare. Buongiorno Carmen. Buongiorno. Volevo chiederle questo, voi avete puntato nei vostri alberghi con grandissimi chef, sia in Toscana che in Lombardia, quindi Gualtiero Marchesi e Alain Ducasse, che sono due pluristellati ma anche importanti a livello internazionale. Cosa hanno significato questi due ristoranti per i vostri alberghi? Ma senza dubbio hanno significato tantissimo. Il progetto dell'Alberetta è partito con l'idea proprio di collaborare, di creare qualcosa di speciale con Gualtiero Marchesi. Quindi direi che questo connubio grandi alberghi, grandi chef per creare l'eccellenza di un grande albergo, siamo stati un po' i precursori ad iniziarlo, e con Gualtiero Marchesi senza dubbio è servito tantissimo, non solo per l'Alberetta ma anche per il territorio. E quando poi siamo partiti in Maremma abbiamo pensato all'Oltralpe per portare qualcosa di ancora più forte e di ancora più deciso, e anche lì abbiamo avuto la conferma. È senza dubbio per noi albergatori, imprenditori, un grande impegno, soprattutto economico. Bene, rimanete con noi ancora, sentiamo però, abbiamo già dei radioascoltatori, Antonio dalla provincia di Milano. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Io devo dire che non mi capita molto di chiamare le radio, però questa volta ho voluto assolutamente farlo e sono contento di poter parlare. Perché ho 50 anni, ho la fortuna di viaggiare per vacanza molto, e devo dire che in Italia mi trovo molto male, cerco di andare pochissimo. Quest'anno avevo deciso di non fare ancora viaggi lunghi e ho fatto un po', diciamo, per vacanza Taormina, Ischia. Soprattutto Ischia, devo dire che mi sono trovato, vabbè, non voglio fare ovviamente un caso generale, in un albergo quotato, malissimo. E parlando di colazione, una cosa indegna, veramente indegna. Mi spiace perché comunque è un paese molto bello il nostro, ma io non ci voglio più fare vacanza in questo paese, sei trattato in una maniera indegna veramente, non hanno neanche la minima idea in tanti alberghi di cosa vuol dire dare una colazione, di fare ristorazione, quindi sono d'accordo con l'appunto che lei aveva fatto, quanto è importante la ristorazione per gli alberghi. Attenzione, dico ovviamente che casi, non voglio generalizzare, certo, che non si offenda nessuno all'ascolto, per amor di Dio, però io faccio vacanza all'estero. Grazie, grazie. Voglio tornare sulla prima colazione con Arrighi. Arrighi, tu cosa ne pensi della prima colazione degli alberghi? Anche questa andiamo mediamente in Italia. Ma guarda, ci sono due tipologie di strutture alberghiere. Quelle commerciali, dove il livello della colazione è comunque aumentato, e quelli di categoria superiore, dove ho sempre trovato comunque un buffet con una buona scelta. C'è sempre il problema del caffè, perché ormai tutti si sono portati verso queste macchine automatiche di distribuzione. Io che viaggio molto, però mi rendo conto che anche all'estero, salvo qualche paese del nord Europa, dove per loro la colazione è come un pranzo, dove c'è una ricchezza anche di prodotti che sono un po' al di fuori della colazione tradizionale. Però devo dire che se si va su una struttura alberghiera dove si fa di solito la pensione, e abituati anche ad accettare gruppi organizzati, il livello scende molto. Bene, grazie a Fausto Righi. Carmen Moretti, rimanga con noi. Sentiamo Ilia da Roma. Buongiorno Ilia. Buongiorno a voi tutti, buongiorno agli ascoltatori. Allora, questa è la mia esperienza. L'ultima è alla Fiera di Rimini del Gelato, che sono una gelataia. Quindi io non vado mai, quando vado per lavoro, in alberghi di lusso, ma al limite a 3 stelle va benissimo. Vi assicuro che è veramente deleterio, perché tutti hanno preso l'abitudine di fare queste brioscine, i cornetti, come li vogliamo chiamare a Roma, congelati e scongelati. Quindi appena entra in ambiente colazione già sente questo odore pessimo, che già l'odore è nauseabondo. Quindi già parte male. Sono di una qualità pessima, quando queste strutture hanno degli chef, dei cuochi, chi sia, potrebbero fare dei dolci con 2 lire e fare sì che la mattina si possa fare una colazione con un dolce degno di noi esseri umani. Bene, grazie Ilia, io sono completamente con lei sul discorso dei cornetti, la appoggio fino in fondo, e devo dire che dissento da Arrighi per quanto riguarda la prima colazione. Carmen, sicuramente purtroppo, all'alberetta... Purtroppo concordo un po', è una cosa molto impegnativa da seguire la prima colazione, sono assolutamente d'accordo. Io credo che paghi la prima colazione, però, se fatta bene in un albergo, perché si ricorda, non so se lei è d'accordo. Sono d'accordissimo, perché per me è l'inizio della giornata, la prima colazione è veramente fondamentale, ed è una cosa che anch'io quando viaggio analizzo come prima cosa d'abitudine. E devo dire che noi abbiamo sempre cercato di dare molta attenzione a questa situazione. Infatti in alberetta abbiamo una buona prima colazione, dove forse per un grande chef non è il momento così mentale della giornata, quindi concordo con tutti i commenti che abbiamo sentito. Soprattutto se parliamo di alberghi a livello commerciale, assolutamente in Italia è impostata, forse perché non c'è l'abitudine, in un modo abbastanza scadente. In Andana invece con Alain Ducasse abbiamo avuto, probabilmente perché cuoco non italiano, maggiore attenzione, e abbiamo un livello altissimo, viene fatta internamente alla cucina, abbiamo tutti i prodotti pronti, cucinati la mattina, il giorno stesso, se non al momento fatti davanti agli occhi dallo chef che cura la situazione. Quindi trovo che sia un punto su cui bisogna veramente lavorare, che in Italia... Bene, io sono... È abbastanza scadente. Sono convinto che sia un grandissimo plus. Grazie a Carmen Moretti, ma io voglio leggere, perché appunto ci sono molti sms. Albergo a 4 stelle in Calabria, colazione con macchinetta come al militare. E poi ancora, da pasticcere trovo sempre colazioni scadenti e tirate, croissant congelati per il 90% dei casi e cappuccini scadenti, in alcuni casi meglio all'estero, sì, sicuramente molto meglio all'estero. Mentre invece c'è qualcuno che dice Casa Salares in Alta Badia, di grandissima colazione. Bene, anche su questo sono d'accordo, ci torneremo. Ora sentiamo Paolo da Bologna, un radioascoltatore. Buongiorno Paolo. Buongiorno, salve. Io proprio per quanto riguarda le colazioni ho sentito anche commenti che sentivo, diciamo, non molto felici, ecco, di quelle esperienze. Penso che queste persone dovrebbero, secondo me, visitare un po' di più, frequentare i bed and breakfast, perché grazie alle eccellenze che abbiamo culinarie noi in Italia, i bed and breakfast alla mattina nel loro piccolo offrono delle colazioni che sono in assoluto migliori dei ristoranti, tranne qualche piccola eccezione. Io la mia esperienza... La mia esperienza personale di un bed and breakfast, io sono di Bologna, nel Vicentino, non so se si può parlare di nomi o cose, insomma, però, pronto? Bene, bene, bene, abbiamo già capito, grazie Paolo da Bologna, abbiamo capito le sue esperienze positive, almeno uno positivo. Bene, stanno passando Fede Tinto, i due colleghi di Decanter, li saluto caramente, a presto, ciao. Bene, ora abbiamo con noi Davide Di Corato, che è direttore del mensile Chef, e a lui pongo la domanda che ho posto a Righi. Cosa ne pensi della ristorazione d'albergo oggi in Italia? È cresciuta? Siamo ancora a metà degli anni Ottanta, quando sicuramente era molto molto diversa, Davide, tu cosa ne pensi? Innanzitutto buongiorno a tutti. No, grazie a Dio è cambiata. Il ristorante da profondo rosso, come era considerato dai direttori d'albergo, dal management di allora, è stato visto come una fonte di utile, un servizio in più che potevano dare alla loro clientela. Diciamo che si è assistito a un passaggio storico dal ristorante d'albergo al ristorante in albergo, e sono cresciuti notevolmente, tant'è vero che forse in alcune città come Roma la ristorazione è a livello di alto livello, ad alto livello è cresciuta notevolmente, basta vedere le numerose stelle, visto che si è sentito parlare della Michelin, che sono state date negli ultimi anni, mentre Milano è rimasta un po' ferma, forse come ristorazione d'albergo. Ecco Davide, ti ricordi però che a me... Sì. Che dagli anni 90 non abbiamo più una stella Michelin a Milano in un albergo. È vero. No, volevo ricordarti che tu la seguivi già da metà degli anni 80. La ristorazione a Milano è stata salvata dagli alberghi, se ben ricordi. Il sì. Palace, c'era il Gallia, poi c'è stata una decadenza. Sì, poi una crisi, è crollato tutto. Non so cosa sia successo. Mentre Roma, già negli anni 60, al massimo d'asilo c'era la stella. Il Byron fino agli anni 95 ha tenuto due stelle, sì, è vero. Mentre Milano si è persa, non so se è dovuta alla clientela, se è dovuta alla gestione degli alberghi, è un mistero che non riesco nemmeno a dare una risposta. Bene, l'unico albergo stellato Michelin considera fuori Milano, che certo. È il Devero di Enrico Bartolini, ma siamo già fuori Milano per andare a cercare un albergo stellato in quel di Milano. Sentiamo Sandro da Verona, rimani con noi, un radioascoltatore. Buongiorno Sandro. Buongiorno. Niente, io volevo solo dire che sono spesso in Trentino, Alto Adige, e lì anche gli alberghi più normali, diciamo 2-3 stelle, hanno tutti delle colazioni interessanti, insomma, la mattina. Concordo con lei pienamente su questo, poi ne parleremo nella seconda parte. Grazie a Sandro da Verona. Ora andiamo addirittura in Cina, andiamo a Pechino, andiamo a trovare Armando Zanini, che è direttore del Capri Palace, perché diciamo che in quell'albergo c'è sempre stata una grandissima attenzione al ristorante. Ma io voglio fare una domanda a Zanini. Zanini, il ristorante può essere un'attrazione turistica anche per un albergo? Buonasera, dottor Paolini. Buonasera, sì, noi siamo ancora alle 11:30 del mattino comunque, bene. Saluto Zanini. A tutti. Sì, sicuramente il ristorante d'albergo può essere un ulteriore motivo di attrazione. E devo dire che in questi giorni ho viaggiato moltissimo all'estero, prima in Australia, adesso in Cina, ancora prima in Giappone, e mediamente nell'alto di gamma, nell'hotellerie diciamo di lusso, il livello medio della ristorazione è molto molto elevato, e devo dire è ancora avanti rispetto al livello medio della ristorazione di alta gamma all'interno degli alberghi di lusso italiani. Ecco, ma la prima colazione, che è un po' il cruccio, abbiamo, io non so quanti SMS ho qui, ne ho alcuni a luci rosse che non prendo in considerazione, ma gli altri sono tutti sulla prima colazione, veramente diciamo che è un punto nero questo per gli alberghi italiani. È assolutamente un motivo di debolezza. Devo dire che anche nell'hotellerie di alta gamma, laddove anche è presente una ristorazione diciamo di buona qualità, c'è poca uniformità in termini di offerta qualitativa tra i servizi di ristorazione che vengono offerti al ristorante principale, magari anche stellato, e la piccola colazione o la colazione breakfast cosiddetto. Ho capito, e vedo qua appunto, ora ci sono anche ovviamente anche qualcuno molto positivo, mi citano degli alberghi, Villa Romanazzi a Bari, un altro a Torgiano, il Grappolo d'Oro, un altro ancora, chi mi dice che l'Hilton Catena Estera, pessima colazioni, Mario, chi mi mette in discussione anche gli alberghi di cui abbiamo parlato prima con Carmen Moretti, quindi sicuramente ci sono diversi punti di vista. Franco dalla provincia di Ravenna, buongiorno Franco. Buongiorno, buongiorno. Io sono un albergatore cervese e volevo portare la mia esperienza velocemente. E cioè, noi a casa nostra forniamo una colazione ricca, molto variata, e tra l'altro dove c'è la presenza di torte fatte in casa rigorosamente con ingredienti naturali. Ebbene, nel momento in cui vengono a mancare i famigerati croissant, quelli di cui si parlava prima, che sono veramente pessimi a livello qualitativo e a livello di sanità, diciamo, il cliente li chiede, cioè non riusciamo, è una questione culturale. Io credo che ci sia questo anche di problema da considerare. Quindi chiede cappuccino e croissant, questo è il punto. Diciamo che chiede il croissant anche se non è di qualità, non prende la torta fatta in casa, capito? Chiede il croissant anche se non è di qualità, non riesce a distinguere le cose di qualità da quelle invece di non qualità, praticamente, ma chiaramente si tratta di non generalizzare, non voglio dire tutti, ma ce ne sono diversi, per cui dobbiamo mettere nostro malgrado quelle cose che non metteremmo sul buffet. Bene. Perché ci grazie. Vengono richieste. Grazie Franco, grazie. Torno a Davide Di Corato, volevo chiedere, Davide, si parla di prima colazione, tu cosa ne pensi? Siamo fermi al palo, sono d'accordo con quello che ho sentito finora, nel senso che la prima colazione è ancora ferma alla spalla cotta e al succo di frutta liofilizzato. Se la ristorazione è cresciuta, la prima colazione no, forse perché non si considera che un cliente esterno all'albergo possa andare a fare colazione, quindi non è considerata un business, mentre un cliente esterno può andare a mangiare al ristorante. Questo potrebbe essere una delle motivazioni per cui l'albergo non investe sulla prima colazione, perché tanto uno si alza e è obbligato per forza a farla lì o da fuori, ma comunque difficilmente uno non fa colazione in albergo, mai si trova lì, deve uscire un caffè, lo beve almeno quello. E anche un caffè spesso è cattivo, con tutte le tecnologie che si può avere oggi si possono avere macchinette da caffè, se fa pubblicità devono mettere una cialdina e è un caffè buono, le macchine da caffè degli alberghi sono davvero indecenti, fanno pochi caffè, lavorando poco danno caffè anche cattivi, per non parlare del miscele. Voglio edulcorare un po' quello che ho detto anche prima, che sono stato molto cattivo io sulle prime colazioni, però purtroppo è quello che riscontro. E voglio chiederti, Davide, forse non è un fatto nostro di abitudinario, dell'italiano, diciamo dell'italiano in genere, che non dà molta importanza alla prima colazione? Beh, l'italiano dà poca importanza alla prima colazione, questo è vero. Poi c'è un altro problema, forse culturale, quello che è stato sollevato prima, che se forse siamo cresciuti con prodotti industriali di livello medio-basso, e molte persone quel gusto lì per loro è il massimo della vita, se gli dà qualcosa di diverso. Sì. Ho visto mandare indietro delle forme di Castelmagno perché erano troppo verdi e i clienti dicevano una muffite. Quindi sì. Alla fine cerca anche il cliente a volte. È vero. Bene, grazie a Davide Di Corato, direttore di Chef. Sentiamo, torniamo a Zanini, torniamo in Cina. Zanini, voi avete un pubblico molto internazionale nel vostro albergo ad Anacapri. Volevo chiedere, è esigente sulla prima colazione il vostro pubblico internazionale? Assolutamente, sì, molto molto esigente. Noi sentiamo il dovere, l'obbligo, ma anche per coerenza con la cultura, diciamo, della ristorazione che tentiamo di promuovere all'interno del nostro ristorante, del nostro albergo, sentiamo l'esigenza di adeguare la qualità del breakfast a degli standard che siano di eccellenza. Quindi il nostro ospite, il nostro cliente ha questa esigenza e noi sentiamo anche noi il bisogno di accontentarlo. Ecco, un'ultima domanda velocissima, poi la lasciamo alla Cina. Volevo chiederle, le stelle sono importanti per un albergo, le stelle del ristorante? Assolutamente sì, sono importantissime. Noi abbiamo sempre creduto che la Michelin, non solo in Italia, ma a livello internazionale, ha una visibilità straordinaria. Io sono, la correggo, non a Pechino, a Hong Kong. E per esempio sono in un albergo, il Langham, che ha una stella Michelin. Stasera vado a cena al Four Seasons che ne ha 3 e non escludo, andando a cena al Four Seasons, di trovare un ambiente piacevole e favorevole, e in una prossima occasione magari la visita che faccio questa sera a cena mi indurrà probabilmente a scegliere l'albergo per un mio prossimo soggiorno, quindi diventa un motivo di attrazione, un motivo di interesse nei confronti del ristorante, che ha di riflesso un beneficio anche nei confronti dell'albergo, oltre che a diventare un centro di ricavi importantissimo. Bene, grazie, grazie Ermanno Zanini, buona cena stasera. Ora abbiamo con noi un, diciamo, un noto albergatore dell'Alta Badia, dove ormai il modello gastronomia come attrazione turistica funziona, come quindi la ristorazione di un gruppo di alberghi e sicuramente anche la prima colazione la mettiamo in questo pacchetto. Buongiorno Michil Costa. Buongiorno a voi tutti. Ecco, volevo chiederti, diciamo, questo livello ormai riconosciuto da tutti della vostra area, di questo, diciamo, distretto del buon mangiare in alta Badia, ecco, diciamo che ha portato grossi risultati turistici, o mi sbaglio? Sì, ha portato risultati notevoli, uno perché ci crediamo, ma due perché chiaramente abbiamo a che fare anche con un'intelligenza turistica, quindi pensando all'autentico, alla sincerità, a proporre un pezzo di cultura sudtirolese o ladina o di cultura delle Alpi o delle montagne, se così volete. Ecco, la prima colazione sicuramente in montagna forse è più importante che in città, però voi avete puntato, tu in particolare col tuo albergo, hai puntato in maniera puntigliosa e devo dire anche con grosso impegno alla prima colazione. Dai risultati, diciamo, al turista, dagli una prima colazione straordinaria. Ma dà grandissimi risultati e qui vorrei, se posso, fare un passo indietro. Pensando al turismo, che una volta era esplorazione o voglia di conoscenza, pellegrinaggio ma anche spiritualità, pensiamo a Goethe, no? Che scrisse del viaggio in Italia nel 1817. Poi cosa è successo con la massificazione, con la globalizzazione, con lo spostamento di milioni di turisti? Tutto si è molto appiattito. In Italia abbiamo 4 milioni e mezzo di posti letto, 35.000 alberghi, quindi tutto si è molto uniformizzato. E quindi è chiaro che chi non si posiziona su questo mercato, chi non ha la capacità di innovarsi, va avanti con delle emozioni artificiali che alla lunga non portano ai risultati. E quindi bisogna assolutamente puntare su queste chicche, quindi penso soprattutto alla gastronomia, perché noi ospiti abbiamo l'ospite che ci meritiamo. E quindi facciamo anche una funzione. Abbiamo anche una funzione da educatore gastronomico e sono d'accordo con la signora che diceva prima che dipende tutto da noi, non è quello che il cliente vuole, sono io che vado a cercarmi l'ospite, che poi propongo una mia questione culturale. Non dimentichiamo che il futuro del turismo si basa su tre punti cardine: green, verde, etica e cultura. Della cultura fa parte certamente anche la questione gastronomica, il cibo. Certo. Grazie a Michil Costa, grazie di questa tua testimonianza. Roberto da Firenze, un radioascoltatore. Buongiorno. Sì, salve. Io lavoro in un albergo, l'Hotel Craft, e diciamo noi prestiamo molta attenzione alla colazione, ma per vari motivi. Ci sono anche alcuni segreti in pratica. È molto importante, secondo me, oltretutto la mattina credo che sia importantissimo accogliere poi il cliente per tanti motivi, con un'attenzione quasi personalizzata. Quindi quando chiede il caffè, che sia ovviamente buono, ovviamente anche di qualità, ma come lo chiede? Lo chiede alto, basso, caldo, tiepido? Chiede un caffè latte di un certo modo? Cioè, prestare l'attenzione e Bene. Sapere... e cosa richiede il cliente, e al tavolo bisogna portare Bene. Quello che il cliente chiede. Grazie Roberto. Ora abbiamo con noi uno chef tristellato in Italia e stellato a Londra, quindi a lui buongiorno Heinz Beck. Buongiorno Heinz. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Io voglio chiederti, tu sei, cioè hai un ristorante non d'albergo, nell'albergo, in Italia e a Londra. Ti chiedo, c'è una differenza sostanziale tra il frequentatore del ristorante nell'albergo a Londra e a Roma? La clientela a Londra probabilmente è più internazionale, perché comunque Londra è un mercato molto aperto e tutti vengono a Londra e perciò è anche un albergo molto molto centrale, perciò più internazionale. Invece qui a Roma una clientela più italiana, più romana, ma alla fine è uguale se internazionale o nazionale, perché i clienti che vengono a ristorante come il mio sono comunque clienti che scelgono il ristorante perché hanno letto o perché hanno sentito, perciò sono clienti qualificati. Senti Heinz, ma molti clienti dell'albergo sia a Londra che a Roma vengono per te, perché tu sei un'attrazione e quindi tu porti il turismo all'albergo. Sì, io penso che oggi per oggi è sempre di più, è importantissimo per un albergo di livello di dare anche una ristorazione di livello per completare l'offerta. E poi tante volte questi clienti che vengono in questi alberghi importanti scelgono il ristorante anche per il ristorante, perché sanno che probabilmente la sera non escono e vogliono mangiare comunque in modo salutare, in modo adeguato e in modo buono. Ecco, volevo farti un'ultima domanda. Tu giri, quindi non rimani fermo, ti muovi anche abbastanza. Voglio chiederti, cosa ne pensi della prima colazione in Italia, negli alberghi in Italia? Guarda, io dico solo una cosa. Se io la mattina faccio prima colazione a qualsiasi posto, il caffè non è come lo desidero io, mi rovina la giornata, perché il primo caffè della mattina determina la qualità della giornata, e questo è per me una cosa molto molto importante. Perciò scelgo sempre il ristorante dove so che la prima colazione è molto molto buona. Se il ristorante non mi dà fiducia dell'albergo, io non la colazione in albergo non faccio, preferisco a farlo in un bar. Grazie Heinz Beck. Leggo: l'ultimo sapore che resta in bocca dopo un pasto è il caffè, eppure alcuni ristoratori attenti alla qualità sul caffè scelgono in funzione solo del costo. Walter, bene. Ebbene, abbiamo con noi un critico gastronomico che gira sicuramente l'Italia, Luigi Cremona. Buongiorno Luigi. Buongiorno Davide. Allora, cosa ne pensi tu della ristorazione d'albergo in questi ultimi anni? Secondo te la qualità è cresciuta, ci siamo fermati, oppure interrogativo? Beh, diciamo che si può sempre fare di meglio, no? Però io credo che stiano veramente migliorando le cose, anno dopo anno, grazie credo all'esempio prima che è partito dalle grandi città, no? Roma in primis, con le sue famose terrazze che in effetti in bella stagione si aprono alla ristorazione e vengono molto frequentate, ma anche poi man mano un po' tutti gli altri. Alla base c'è ovviamente il grande vantaggio di avere ospitalità e mangiare nello stesso posto. Io credo che sia un piacere che non si debba negare quasi a nessuno, quindi accanto ai grandi alberghi famosi vedo molto bene una serie di locande che si aprono lungo il territorio, e sempre di più ce ne sono in effetti. Ecco, quindi tu noti che diciamo gli alberghi non 5 stelle lusso ma molti altri minori puntano sulla ristorazione? Assolutamente sì, io tra l'altro faccio un libro, una guida che si chiama Mete Divina, che è dedicata proprio ai punti che io chiamo a chilometro zero, inteso tra il letto e la tavola in questo caso, e diciamo, mentre 3 anni fa quando sono partito facevo quasi fatica a trovarne un po' in tutta Italia, adesso mi sono fissato il limite dei 150, non più di tanti, però eppure ce ne sono sempre, a questo sempre punto devo tralasciare parecchi. Ovviamente è una situazione un po' anche a macchia di leopardo. Ci sono delle zone, ovviamente quelle legate molto al turismo, tipo Toscana, Campania e così via, che sono abbastanza dense, no? di posti di questo tipo, altre invece sono tuttora un po' carenti, quindi si tratta un poco di armonizzare meglio l'Italia in un certo senso. Bene, grazie a Luigi Cremona. Ora sentiamo Luca da Vicenza, un radioascoltatore. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno signor Paolini, buongiorno agli ascoltatori. Io lavoro per una multinazionale che si occupa negli ultimi anni, ha sviluppato molto i prodotti da prima colazione, una multinazionale che fa anche caffè. E ho notato e noto sicuramente un miglioramento da parte dei gestori, degli albergatori, con maggiore attenzione nel breakfast. Però c'è ancora tanto da fare, perché noto che vedono un po' la prima colazione come più un costo e non come parte integrante dell'ospitalità. E poi c'è anche molta monotonia in questi buffet, si vedono un po' sempre i soliti prodotti, quindi sì, bisognerebbe che cercassero un po' più prodotti autoctoni e promuovere quindi anche il territorio, e magari anche senza fare dei grandi vassoi, ma bensì magari poche cose, ma ma molto più variegate, questo è. Beh, questione di portafoglio, grazie a Luca. Ora abbiamo con noi uno chef importante, patron di un ristorante, che è Paolo Teverini di Bagno di Romagna. Buongiorno Paolo. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Perché ho chiamato Paolo Teverini? Perché Paolo Teverini diciamo che ha anche un albergo, e devo dire che quando si dorme in quell'albergo, che non è in 5 stelle lusso in una città, ma in una, diciamo, un borgo di, anche se noto, di provincia, fa una colazione straordinaria. Devo dire straordinaria, lo sottolineo, credo una delle migliori in Italia, quindi credo che si possa anche puntare sulla prima colazione. Cosa ti ha portato la prima colazione? Ti ha, come posso dire, portato clientele, Paolo? Sicuramente i clienti, non dico tutti perché non tutti i clienti si esprimono, ma i clienti, la gran parte dei clienti che escono da casa mia quando pagano il conto fanno i complimenti per una cosa o per l'altra, ma tantissimi fanno i complimenti per la prima colazione, perché veramente è veramente un buon risveglio. Quando ci si alza, magari si deve affrontare la giornata piacevole o di fronte a una colazione bella, la giornata comincia molto molto meglio, e credo che non occorra grandissimi sforzi per fare una bella colazione, solamente un pochino di attenzione, tutto ciò che è buono, che serviamo negli altri momenti dei pasti, a pranzo, a cena, perché non dobbiamo anche servirlo a colazione? Perché dobbiamo a colazione servire un prosciutto di scarsa qualità e magari teniamo per la cena un buon prosciutto di Parma o del Casentino o di altre cose? Anche la colazione merita tutto questo, merita l'attenzione, merita la manualità, l'artigianalità del cuoco. Il cuoco deve costruirsi la sua prima colazione, farsi la sua pasticceria, prepararsi le sue cose, il suo pane. Sono tante cose che si possono dare nella prima colazione, tante piccole cose, e credetemi, i costi non salgono poi così in maniera proibitiva, mentre invece il ritorno è veramente importante. C'è gente che torna per fare la prima colazione da noi. Bene, questa è la testimonianza, secondo me, molto importante, che io volevo avere, perché appunto quella colazione l'ho provata e ho visto l'impegno che c'è da parte di Paolo Teverini. Grazie Paolo per la tua testimonianza. Volevo anche ricordare che chi vuol vedere un caso veramente clamoroso, raccontato su Facebook Gastronauta, se andate, c'è una persona che ha mandato un racconto di come è stato trattato in un albergo addirittura 5 stelle, e quindi credo che sia molto significativo. È molto lungo, io vi prego di andarlo a leggere, perché ci sono dei passaggi veramente incredibili di quello che è successo in questo albergo. Bene, sentiamo Francesca da Genova. Buongiorno Francesca. Buongiorno Davide. Niente, io ho telefonato sentendo questa trasmissione perché mi è capitato a volte che, diciamo, a fronte di un albergo in cui uno va a 4-5 stelle, diciamo lusso, e con anche, non so, uno prende anche l'appartamento, eccetera, poi alla fine vengono anche conteggiate le colazioni. Secondo me è veramente una cosa, una meschinità, a fronte di un cliente che spende veramente centinaia e centinaia di euro per, se non addirittura quasi 1000, per una camera. Grazie Francesca, ma voglio aggiungere anch'io alcuni particolari. Mi è capitato in un albergo di Arezzo di chiedere un caffè espresso, una colazione, un albergo forse uno delle più importanti, ebbene me l'hanno fatto pagare come extra perché c'era a disposizione il caffè, quello con la macchinetta già pronto, quindi è stato un extra. Voglio rispondere anche a un altro radioascoltatore che ha mandato un sms parlando che in molti alberghi della Sicilia la spremuta è una spremuta non fatta fresca con arance fresche, ma addirittura di quelle già pronte, preparate, e sicuramente non fatta al momento. Ebbene, mi è capitato di dormire in un ristorante, in un albergo, dove c'erano degli aranceti nel giardino, e con le arance ben evidenti, ebbene mi è stata data la stessa cosa. Quindi sicuramente il mondo della prima colazione è davvero molto bizzarro in questo paese. Sentiamo Francesco da Ferrara, brevissimo perché devo chiudere. Francesco. Sì, buongiorno Davide, solo intervento brevissimo. Io viaggio per lavoro in tutta Europa e sovente sono in Germania per fiere tra Hannover, Düsseldorf e Francoforte. In quel periodo gli alberghi costano dai 140 ai 180 euro dei 3 stelle, le colazioni, le cene, le posso assicurare, sono veramente molto scadenti. Bene. Questo era solo per dirle che magari non essere tanto esteroffiti. Certo, qualcuno aveva detto il contrario. Bene, grazie anche a questa testimonianza. Poi ce ne sono tante che parlano di ottime colazioni, per cui l'Hotel Duomo di Rimini, e poi ancora ce ne sono tantissime altre. Sicuramente ci sono le eccezioni. Quindi siamo arrivati a conclusione di questo giro, e devo dire che la prima colazione purtroppo è diventata protagonista. Volevo che lo fosse la ristorazione d'albergo, perché sicuramente in questi anni ci sono molti esempi di grande crescita in giro per l'Italia, anche di alberghi che non sono stellati, non sono 5 stelle lusso, come si dice, però c'è una grande cura e si è capito che probabilmente è un'attrazione turistica, così come la prima colazione è importante, specialmente per quei clienti che sono abituati a girare il mondo e a fare i confronti. E allora io vi do appuntamento con la pillola alle 11.05 e alle 23.05, e vi auguro un buon weekend e sicuramente un'ottima settimana dal vostro gastronauta.